Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Di Rosita Celentano e Angelo Vaida. Buongiorno a tutto il mondo! Com'è francese? Com'è che sei francese stamattina? Sono i miei diversi allora, parliamo di cacca. Che parlano. Parliamo di cocco. Di cacca. Sapete che cos'è la cacca? Ma perché devi parlare di cacca? Non ho capito. Ma perché ho visto un articolo. L'ho trovato molto particolare. Sì. Nel senso che arriva il drone per raccogliere le pupù dei cani. Sì, vabbè, che puntata di merda che si profila. Meno male che c'è Igor Sibaldi che ce la risolleva. Che stupido che Igor sei. Igor Sibaldi ha mantenuto la promessa domenica scorsa, è stato con noi oggi, è tornato, ci aiuta a risollevare questa puntata. Sì, però, cominciata Igor, in questo scusami, modo. Scusami, siccome la cacca la facciamo tutti, è un argomento, non è che possiamo far finta. Come dire che uno vuol far finta? Come non la facciamo tutti? Sì, ma non io e Igor non la facciamo. Non abbiamo, vabbè, la vostra non ve la toglie il drone, non viene il drone a portarvela via, ma non è una cazzata, giuro, ragazzi, cioè, ho capito. Allora, parliamo dei cessi giapponesi, cioè appunto tramite con telecamere e sensori che automaticamente fanno la pulizia per le strade nei giardini della cacca dei cani, visto che ci sono padroni cafoni che non tirano sulla cacca che dei bella cani idea, ma il drone però, eh? A terra per fare questo oppure in volo riesce a captare in volo Gem Boy ci sta facendo mettere Peter cos'è? Aspetta sarà cacca Hulk dallo sport non ci voglio credere. Peter sei un genio. Peter che cacchio ascolti la mattina Peter prima di venire in radio regia, il nostro un regista genio. Cioè no, il drone vola, poi individua la cacca, c'è pure il video, poi se uno vuole andare a vedere sul sito di pensa se, se quando lui l'ha presa, no, poi lui si risolleva in volo e la perde e cade su qualcuno, quel qualcuno potrà dire che è molto fortunato. Certo, assolutamente sì. Però perché non si vuole parlare della cacca? Poi ci sono trasmissioni dove parlano in un modo si sbagliato. Si temeva soltanto i piccioni e si sente bene anche i droni adesso è andato per strada. Sì, è certo, quella dei droni è un po' più grossa, no? Ma cioè ogni drone per ogni singolo avvenimento oppure il drone ha un serbatoio? No, il drone ha un serbatoio. Un drone aereo chiamato Watchdog 1 grazie alla telecamera individua la pupù il posto specifico. Niente, sono diventata dislessica. Vabbè, individua dov'è la merda e la va ad aspirare. Perché la va ad bella aspirare. Idea comunque. E poi la smaltisce pure. Ma che in bella Olanda, idea di merda. In Olanda, perché hanno scoperto che ogni anno ben 100 milioni di chili di feci canine non vengono correttamente smaltiti. 100 milioni? 100 milioni. Questo cazzo cagano. Capisci? In particolare a partire dalla primavera. Chissà se i cani sono d'accordo. Veramente, che gli dovremmo frega i cani, scusa. È come, lasciano lì una traccia olfattiva così importante, anche visiva così importante. È importantissimo. Senti, allora sai che cosa ti dico? Allora, è una questione di adattamento. Anche i cani si devono adattare, visto che le loro cacche non possono stare lì. Metteranno altri segni, no, per esempio gratteranno il loro Facebook magari, cioè loro comunicano. Vabbè, ma su Facebook non è che io ci posso mettere gli odori, capito? Allora ci metto altre cose. Ma loro sì, ma che c'entra? Allora, ma scusami, sei mica tu quello che insegna che i cani socializzano usandosi il sedere? Noi mica ci usiamo il sedere, ci diamo la mano? Capito, si adatteranno raspando il terreno perché tra le dita delle zampe hanno le ghiandole sudoripere che lasciano una traccia, faranno pipì in quel punto lì e faranno meno della cacca adattandosi. Perché l'altra volta parlavamo di maltrattamento genetico. Ecco, la genetica è correlata all'evoluzione, al cambiamento del patrimonio genetico che varia appena appena da una generazione all'altra e produce individui differenti. Per esempio in una cucciolata ti nasce un quattro zampe, no? Simile a un cavallo, una zebra eccetera, con il collo più alto, e quello riesce meglio ad arrivare a prendere i frutti dagli alberi più alti. Se in quel momento si trovano solo frutti dagli alberi più alti, quello lì sopravvive e diventa pian piano una giraffa, cioè quella specie lì pian piano si tramuta in una giraffa. Cioè, questo Igor è quello che ci diceva guardando e sta pensando Darwin. Molto. Da un lato sto pensando a questo, dall'altro sto pensando a cosa mi capiterebbe se ci fosse un drone che arriva su Facebook che porta via i messaggi che metto su io. Eh certo, però, lui sarebbe spesato. Magari il cane ha scelto quel posto lì perché gli serviva proprio quel posto però lì. Noi già gliela togliamo col sacchettino la cacca al cane in quel posto lì. Sì. In quel posto lì. Quanti spunti stiamo dando con questa puntatona anche noi? Anche questo, se non so, il cane probabilmente guarda un ha po' delle trasmissioni così vuote. Sì, infatti, assolutamente. Tu immagina che tra l'altro uno dei c'è un comportamento particolare che è la coprofagia. Cioè cos'è la coprofagia? Mangiare le proprie feci. Ah, oh Madonna, ci sono dei cucciolini che lo fanno e a volte lo fanno per apprendimento nei confronti dell'adulto. Oppure vedono che tu la porti via subito e loro perché hanno paura di una punizione, perché l'hanno visto fare mille volte, perché magari hanno anche delle carenze alimentari, prendono e ingoiano. Madonna mia. Fatto. Non c'è più, ecco, non c'è più. Un, due, tre via. L'altra questione era quella dell'evoluzione, infatti. Mm-mm. Che non so se... chissà se gli animali sarebbero d'accordo con Darwin. Non lo so. Tra l'altro, ultimamente, c'è un ritorno alle teorie lamarckiane. Perché Darwin diceva, no, è soltanto l'individuo che è nato così, tra quegli individui che sono, ecco appunto, per esempio, quello che ha il collo più lungo in quel momento risulta essere quello che si riproduce, gli altri muoiono, e quindi farà dei figli che avranno anche loro la probabilità di nascere col collo lungo e via dicendo, no? Lamarck diceva, non è soltanto al cambiamento casuale del codice genetico che vengono fuori degli individui, uno col collo più lungo, l'altro col collo più corto. È la tua intenzione e volontà e comportamento di allungarlo questo collo, è la tua esperienza nella vita che cambia la tua genetica, e quindi è più probabile poi che i tuoi figli nascano con... Il punto di vista è stato smentito, questo con il famoso esperimento dei topolini. Ma tempo fa, adesso lo stanno riprendendo. Per esempio l'epigenetica è una branca che studia proprio questa cosa qua. Comunque, dimmi dell'esperimento del topolino. Lo conosci sicuramente, per smentire Lamarck. Ma Freud, per esempio, credeva ancora in Lamarck. Chi era Lamarck? No, scusate, perché voi due cervelloni parlate di... Io non so un cacchio, sono una profana. Qui un pre-evoluzionista. Pre-evoluzionista? Ma un filosofo? Un filosofo naturale, teorico. Diciamo contemporaneo di Darwin, no? Da cui poi deriva tutta la teoria. Pochi appena appena. E ha preso 10 topolini e gli hanno tagliato la coda. Poi li ha fatti accoppiare tra loro e i topolini che nascevano erano con la coda. Allora gli hanno tagliato ancora la coda anche a questi. Oddio. E hanno proseguito per 19-20 generazioni e hanno visto che i topolini nascevano sempre con la coda. Che è un esperimento del tutto inutile, perché bastava che facessero caso agli ebrei, che sono circa 3.000 anni. Nessuno di loro nasce circonciso dopo 3.000 anni. È vero. E con questa pillola facciamo un attimo un break, Igor. Teniamo a mente torniamo tutto, che ritorniamo poco. Fra un attimo. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Allora, stavamo parlando con il nostro ospite Igor Sibaldi, che come ha mantenuto la promessa anche questa domenica era con noi. Parlavamo di evoluzione, ma si può dire che si è sempre in evoluzione? Ma si può dire che forse l'evoluzione è un concetto, adesso qui però si dice questa cosa e qualcuno si arrabbierà di sicuro. Perché? Dai, facciamola arrabbiare. Capirai. Cioè, se questa cosa che sto per dire la dico negli Stati Uniti è un disastro. Ah. Mm. Parliamo in Italia, tanti non ci fanno caso, però qualcuno magari si arrabbia. Mm? Forse l'evoluzione è un concetto da ridefinire. Perché? Perché noi partiamo, ogni scienziato parte dal presupposto che tacito, ma che ti tiene all'interno della scienza, che l'uomo sia l'animale più evoluto di tutti. Appunto, che non è vero. Quindi il punto di vista dell'uomo è vero, no? Per cui se l'uomo vede una nuvola fatta in un certo modo, ha ragione lui. Perché lui è il più evoluto di tutti. Quindi la scienza non è l'espressione di quello che vede l'uomo, ma è la descrizione della verità con la V maiuscola. Tanti cattivi scienziati pensano in questo modo, però sono una maggioranza. Ora, ma chi ha detto che l'uomo è il più evoluto di tutti? Infatti. Appunto. Infatti, perché molti cani a cui ho chiesto questa cosa l'hanno detto che non sono d'accordo. Anche il mio gatto. Anche, infatti, per quello che vedi, io invito Igor, perché so che il suo gatto non ha la coda. L'uomo non ha la coda, per esempio. È uno svantaggio grosso. Appunto. Sì. Ma noi l'avevamo la coda una volta e c'è rimasto solamente il coccige che è quel... non l'abbiamo mai avuto. Io non mi ricordo, mai visto... No, ma per esempio, no? Io mi immagino un uccello migratore, no? Che guarda dall'alto uno che si è perso in un fazzoletto di terra e dice, guarda che quel pirla lì che si è perso in questo fazzoletto di terra, mentre io mi attraverso continenti interi grazie ai campi elettromagnetici. Scusa, non sa volare e distrugge le cose. Scusa, Igor, ma perché appunto e non pulisce? Ma perché e non si pulisce? Ma perché tu hai detto non ha la coda, quindi? Perché la coda è così sintomatica di... Beh, dal punto di vista di un cane o di un gatto, una persona che non è... Non solo, di qualunque animale con la coda. È goffo. Una persona che non ha la coda e dice, poverino, è rimasto proprio indietro in evoluzione. Amputato, è menomato, come si dice? Sì. È un difetto. Poi l'uomo ha questo svantaggio enorme agli occhi di qualsiasi animale, ha le parole. Ha le parole, bravo, stavo parlando anch'io. Quindi con le parole l'uomo mentisce, si condiziona, si convince di cose assurde. E l'animale guarda costernato a questo uomo che si perde in problemi di parole, mentre sono un sacco di cose più interessanti. Senti, c'è un libro che è un romanzo di cui mi ha parlato mio cugino Bruno, che si intitola, se non mi ricordo, mannaggia, devo andare a ripigliare, però mi aveva fatto ridere perché è tutta una storia raccontata da cani, ma tu non lo capisci all'inizio quando lo leggi. A un certo punto loro raccontano, fra due cani che chiacchierano, uno dice all'altro: ma come sono questi umani, perché tu li frequenti spesso? Lui fa: ma sai che sono un po' noiosi. Dice: ma dai, ma perché? Perché dicono sempre: fermo lì, vieni qua, cuccia, seduti, non si riesce a fare un dialogo, una conversazione brillante. Quindi pensa quanto siamo pallosi visti dal punto sì, di vista ma è loro. Giusto, è giusto. Tra l'altro, cioè, uno pensa che, scusami se faccio questa piccola parentesi, visto che ci sono tanti amici di cani in ascolto, no? Si pensa sempre che l'educazione sia un allenamento al conformarsi ad uno standard ideale. Cioè il cane educato è il cane che fa quello che gli dico che, io che, ogni volta che io voglio. Che obbedisce agli ordini. Esatto, il cane è obbediente, no? Il mio cane non mi ascolta significa il mio cane non fa quello che io gli dico, Sam. Non mi capisce e non fa quello che io gli dico. Quando invece lo fa, allora è un cane molto intelligente, perché fa quello che io gli dico. E questo, ovviamente è sempre questa connotazione antropocentrica. Perché è necessario che il cane lo faccia, secondo queste persone? Perché io sono il più evoluto. Io sono quello più intelligente, io appartengo alla specie più quella migliore, e quindi il cane deve fare quello che dico io perché non si rende conto di quello che gli succede attorno, no? Quindi alla fine è meglio che invece non faccia. No, in realtà, se è vero che educare ex duce, tiro fuori il potenziale, cioè pongo le condizioni perché il cane esprima se stesso, quindi diventi un po' idiota da questo punto di vista, come il nuovo libro di Igor si chiama Il coraggio di essere idiota, no? Edito da Mondadori. Allora, quello che invece dovremmo fare è che alla fine di un percorso educativo ogni cane dovrà essere un po' più diverso dagli altri, non più conforme, se quel percorso educativo è stato fatto bene. Cioè tu dovrai essere stato così bravo che non hai bisogno di dire al cane: seduto, vieni qui, fai questo. Allora io sono bravissima, perché tu mi dici: seduta, vieni qui, stai zitta, non parlare, cucina, e io invece non faccio nulla. E tu non fai nulla. Nulla di tutto questo, quindi capisci, infatti, io sono evolutissimo, infatti, no? Infatti. Esattamente, io non lo vorrei questo, infatti mi sono rivolto ad un addestratore di femmine, però poi lo conoscerai un giorno, te lo presenterò. Ma chi è? Ma scherzo, ma secondo te? Io sono una ribelle, figura. Però Igor lui fa così, col cane non lo fa, con Jean-Pierre, con Morfini fa. Con me dico, cucina, per poi dirle brava, ma lei non lo fa. Ma questo tono, cucina. Ma aspettavo che tu fossi già qui quando io torno dal lavoro sudato, che porto i soldi a casa e non hai ancora fatto un cazzo. E io non faccio niente. Quando mi dici così, dico: ecco, arrangiati, cucinati tu. Quindi io sono evoluta. Mi stai dipingendo come un mostro. Ma sì, no, so, ovvio che sono battute. Oddio, un po' sì, un po' no. Però no, scherzo. Non oso fare domande riguardo. No, falle. Tra moglie e marito. Donna, torna nel tuo habitat naturale, dietro i fornelli. Dietro i fornelli, a cucia. Senti, no, ma mi ci vedi, scusa, Igor? Non so, sai, sono misteri dell'alcova. Dell'alcova, esatto. No, quindi quello più evoluto è quello che non ubbidisce, in poche parole. E purtroppo no. Come purtroppo no, sì o no? No, secondo molti scienziati invece no, perché siccome tu ti sei adattato, alla fine ti sei giusto, Igor? Ti sei conformato a quello che l'ambiente ti ha detto di fare. Appunto, quello che non ascolta e che fa, che non si conforma agli ordini, è quello più evoluto. Questo è quello che spererei io. Però purtroppo nell'evoluzione, e qui si rischia sempre di far arrabbiare qualcuno, però tanta parte sono cose che si dicono a radio. Appunto, ma facciamoli arrabbiare, dai. Allora, nell'evoluzione c'è questa idea molto inglese, molto britannica, che ci si evolve per adattamento. Cioè le condizioni sono quelle, e l'inglese è pragmatico, è realistico, ha un senso dell'autorità molto spiccato e armonioso. Come noi, uguale. Noi siamo al contrario. Appunto, no, infatti era ironica la mia cosa, siamo esattamente così. Ha un senso dell'autorità spiccato e armonioso, i ricchi sono ricchi, i poveri sono poveri, se ti adatti ci stai. Se invece fai l'irlandese, se fai quello che non si adatta, allora non ce la fai. Questo punto di vista inglese in Inghilterra suona benissimo. In Germania suona benissimo, mm-hmm. E l'Inghilterra e la Germania sono quelle che hanno educato il pensiero durante l'Ottocento. Se qualcosa non era inglese o tedesco, insomma, la Francia era per divertirsi, ma per pensare c'erano inglesi e tedeschi. Loro però la pensano così. Noi? Perché in realtà uno dice: ma è proprio vero che prevale l'adattato, cioè il conformista? Uno dice: se io voglio vedere questo, lo vedo. Mi convinco, il mio selettore di fenomeni dice: non vedo i fenomeni che mi danno torto, e per aver ragione vedo solo i casi in cui avviene questo. Ma è proprio vero? A me risulta che l'evoluzione si è prodotta per disadattamenti successivi. Cioè tutti erano conformi a una certa situazione, a un certo punto invece... il delfino dice: io sulla terra mi sono stufato di stare, voglio fare l'anfibio, voglio andare, e comincia a fare il mammifero in acqua, ed è uno che non si è adattato affatto. Problema fondamentale: l'uomo si è adattato o non si è adattato? Ma la risposta c'è? Sì, secondo cioè, me si è adattato. Sì, però sicuramente qualcuno dirà che è proprio sbagliato. Perché allora, cioè, l'uomo non si è adattato, l'uomo ha distrutto. È vero, sono d'accordo perché anch'io. Uno che si adatta dice: la giungla è quella, ti adatti alla giungla e vai. Quindi se si è distrutto non è evoluto. È la mia idea. Sono d'accordo con lui. Cioè è un testone con un orizzonte estremamente stretto. È un arrogante. Ma soprattutto dimostra che il concetto di evoluzione basato sull'adattamento, cioè sul conformismo, molto probabilmente vale solo in certi stati d'Europa, in certi periodi storici. Ma che poi, scusami, sono gli outsider quelli che poi fanno la differenza e ti fanno notare alcune cose. Fallo cioè, spiegare a un darwinista. Non si può. Eh no, non è vero però perché che non si può. Lui, no? Tu sei darwinista? Non è vero. No, non mi definisco darwinista. Però voglio dire, Darwin diceva esattamente questo. Poi a un certo punto c'è quello che esce fuori dagli schemi che risulta essere per quell'ambiente lì il più adatto. Cioè il migliore, cioè, tu dici, l'eccezione quello che la con la fitness migliore, il migliore a funzionare in quel tipo di ambiente. Quindi cosa vuol dire? Che quello lì si riproduce, gli altri no. Ma fitness vuol dire adattato. Fit vuol dire adattato. Eh sì, ma non adattato, adatto. Fit è un participio passato. Cioè, sì. Vabbè. Fit. Allora, cosa succede? Ci sono diversi individui. Uno risulta essere quello fuori dagli schemi. L'ambiente cambia e quello fuori dagli schemi è quello che si riesce a riprodurre. Gli altri perché no. Lui lo fa legato all'ambiente. Se tu ti adatti, che ne so, vivi al caldo, se ti sai adattare a un periodo di gela, allora sopravvivi, se no il gelo ti ammazza. Tu in questo senso l'individuo è la specie, sì, che si adatta che al cambiamento. Allora forse forse bisogna associarlo all'ambiente, però ci sono altri tipi di adattamento. C'è un adattamento quello sociale, adesso, per esempio sociale, emotivo, psicologico, culturale. Invece quell'altro tipo, forse, che è quello che può del essere disobbediente, no? Esatto. Beh, insomma, prima l'abbiamo detto, mio padre è stato fra virgolette un disobbediente. Totalmente. Cioè mio padre, quando faceva gli esami per cantare, gli dicevano: sei squadrato, non puoi fare il cantante, non c'è, guarda che faccia che c'hai, non puoi fare. Non è stato bocciato da tutti quelli che erano i canoni all'epoca per essere un artista. Era un disadattato. D'altra parte, per quello che riguarda la riproduzione umana, è chiaro che se tu hai un telefono, lo smartphone ti riproduce più facilmente che se avessi un Nokia. Perché? Perché se tu ti presenti col vecchissimo Nokia bianco e nero, quelli piccolini, no? Giusto? Sì. Non stai facendo pubblicità? No. No, spero. Quelli che si potevi anche appiattare un chiodo con quelli. Certo. Lì. Ecco, quando stai corteggiando una persona, dice: dammi il tuo telefono. E tu tiri fuori il Nokia. Tu tiri fuori quello, vedi, guarda, dice: no, per la verità fa niente. Guarda, il mio è da aggiustare, me l'ha dato mia nonna. Ci sono dei bellissimi esperimenti sociali fatti su YouTube. Che è? Finito il tempo? Di cui parleremo tra poco. Esatto, fra pochissimo. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Wow, siamo qui con Igor Sibaldi. Mi raccomando, scriveteci a chiedimi se sono felice @radio24.it, perché vi chiamiamo in trasmissione, vi rispondo alle mail, possiamo trattare i vostri casi. Ma adesso, dunque, siamo qui con Igor Sibaldi. Parlavamo di evoluzione, speciazione, queste cose qui. Sapete che Igor è anche un grande appassionato di gatti, Ne hai tre, no? Sì, Wellington, Newton e Caterina. Wellington, come sappiamo, è un filosofo con cui spesso lui si intrattiene a disquisire. Non poteva essere altrimenti. Però abbiamo con noi anche un'esperta della relazione col gatto, che è Sonia Campa. Ciao Sonia. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao Sonia. Lei si occupa di problemi di comportamento del gatto, sai, quando uno, che so, il gatto che dice un problema comune che ti capita, magari. Guarda, quello da manuale è il gatto che fa pipì fuori dalla lettiera. È proprio il caso. Sì. Il gatto che fa pipì fuori dalla lettiera si deve adattare. Io mi aspettavo di più il gatto che si fa le unghie sulle tende o sui divani. Sì. Ah, quello è, devo dire, almeno per l'Italia, per la nostra cultura, è un po' più accettato. Accettato, sì, un po' più tollerato, un po' più considerato normale. Ah, vedi? Le eliminazioni fuori sono il gatto che fa la pipì fuori? Fuori dalla cassettina. Fuori dalla cassettina. Non è mai capitato? Mai capitato? Bene, bene, ottimo, ottimo segnale. E perché lo fa? I motivi possono essere tantissimi, possono essere motivi legati banalmente al fatto che non gradiscono la cassetta come oggetto, come sabbietta che è stata inserita, come posizione, magari in un posto troppo esposto, il gatto non si sente sicuro e quindi non ama eliminare in quel punto. Fino però ad arrivare anche a problemi di tipo sociale, per esempio conflitti con altri gatti o anche altri animali che vivono in casa, ma anche con gli stessi proprietari, o addirittura possono esserci dei problemi legati proprio alla difficoltà del gatto di adattarsi all'ambiente, quindi proprio no, è una manifestazione di non adattamento a 360 gradi, e lì insomma il problema è bello grosso, perché forse poi ovviamente il gatto manifesta un malessere generalizzato, no? A tutta la sua situazione. Vedi, viene fuori questa, perché parlavamo di evoluzione in quanto adattamento all'ambiente che cambia, vi dicendo. Però effettivamente questa cosa dell'adattamento solleva dei quesiti sul conformarsi alle cose, magari quel gatto ha quella sua identità così, però tante volte queste manifestazioni di comportamento denunciano un disagio, no? Cioè il gatto significa che sta male lì dentro. Magari non ama i programmi televisivi che guarda il proprietario. Per esempio. anche. Mentre fa la pipì. No, ma devo dire che questa cosa nel gatto è molto molto forte. Infatti, sapete il famoso detto, no? Il gatto si affeziona alla casa e non alla persona, no? Che oggi è stato un po', diciamo, sdoganato. Sì, assolutamente. Però un fondo di verità ce l'ha. E infatti questi comportamenti lo dimostrano, nel senso che il gatto ha comunque un bisogno di rispecchiarsi nell'ambiente in maniera molto forte. E quindi se l'ambiente non lo mette a suo agio, non gli consente di esprimere poi se stesso, di ritrovare la sua identità, possiamo dirlo tranquillamente, il gatto entra in un conflitto emotivo che può dimostrare in tanti modi. E quindi non si adatta. Esatto, esatto. E il problema poi, no, si ribella. È che poi anche lì non si adatta, a volte anche le stesse eliminazioni fuori dalla lettiera, a volte sono degli adattamenti dal punto di vista del gatto, della serie, no? Se tu mi metti una sabbietta... Che a me non mi piace, io mi arrangio. Esatto, io semplicemente trovo un'altra situazione, quindi il gatto non è a disagio, no? Non ha un problema. No, ma soprattutto, sai quando si dice, no, allora è stupido. Cioè, siccome non fa quello che io mi aspetto, quello che io dico, allora è stupido. Allora io sarei stupida. O anche infatti, lo fa, vedi, per dispetto. Il dispetto è il classico, no? Lo fa contro di me. Vedi. Pensa che l'ultimo libro di Igor si chiama Il coraggio di essere idiota. E c'entra con questa cosa, cioè col fatto che tu vai fuori dagli schemi, cioè non rompetemi le uova, le scatole. Il protagonista del libro a un certo punto si accorge di essersi innamorato, ricambiato di due persone, di due donne. Innamorato di questa e innamorato di quest'altra. Ma le due lo sanno tutte e due che sono tutte due? Tutte e due lo sanno che sono due. E in una società del 1870 naturalmente la cosa era impensabile. E durante un dialogo con una persona che cerca di farlo rinsavire, mm-hmm. diciamo, lui è una specie di questa figura di profeta luminoso che arriva a Pietroburgo, dice: ma voi non vorrete mica sposarli tutte e due? E lui dice: ma sì, sì, perché? Che male c'è? No? Dice: ma lei non ha capito come funziona il mondo? No? E lui viene ritenuto in questo modo l'idiota, perché no, è al di là della morale del tempo. Capito? Ma soprattutto non ha bellissimo capito che di donna ne basta una e ne avanza perché due. Amore, è bellissimo questo libro. Amore, certo. Adesso lo leggo subito. Per... Ma non ce la fa, cioè, a malapena è riuscita a sopportarne una di noi, figurati due. Ho una chicca a questo proposito. Sentiamo, Sonia. Si collega benissimo a proposito di rompere gli schemi, uh-huh. eccetera. In generale i gatti come specie hanno una socialità molto elastica, molto flessibile, riescono ad adattarsi ad un sacco di situazioni diverse, no? Ci sono gatti che hanno una capacità incredibile di adattarsi a varie famiglie e a colonizzarle, uso questa parola un po' brutta, vedi? Contemporaneamente, adattandosi tranquillamente agli stili delle varie famiglie e considerandosi parte di tutte queste famiglie contemporaneamente. Ma anche a educarle. Cioè io voglio adesso la pappa e tu me la dai adesso, quella pappa lì che tu sai bene che mi piace solo quella, sono quell'altra, no? E dove dico io anche, o gli no? Adattatori. Sì, a voglia. Vedi, non è uno che si adatta in quel caso, è uno che adatta gli altri. No, assolutamente non visto da Darwin questo. Ma la cosa eccezionale è che questa stessa capacità che io leggo come un loro talento eccezionale, una flessibilità incredibile, dai proprietari invece molto spesso viene vissuta come un tradimento, sì. Come un ma cosa gli manca? Cos'è perché che non gli sta qua? Cioè la ricerca del rapporto esclusivo anche con il gatto, vedi? Sì, questa cosa è molto, molto proprio vissuta sul personale, sull'oh mio Dio, allora non sono amato. Il gatto è un po' Dostoevsky. E le famiglie invece è un po'... Dice, no, solo questa famiglia. Cristina D'Avena. Io sto pensando a il cosa gatto Dostoevsky, le famiglie Cristina D'Avena. Sto pensando a cosa capiterebbe se io entrassi a casa e con l'odore di un altro gatto addosso. Ecco. Che succede? Penso, non oso pensarlo proprio. Vabbè, non ti è mai capitato di andare a casa di amici che avevano il gatto? Negli ultimi 15 anni no. No. No, comunque non sono mai entrato in intimità. Vabbè, con i gatti. Però di cani sì, cioè se sento l'odore di un cane non gli importa questo niente. Questo me lo tollera, sì. Penso che gli animali abbiano ognuno una sua evoluzione particolare. È un punto di vista questo qui, non darwiniano, ma della genesi. Nella storia della creazione, a un certo punto, c'è un'espressione da brivido, perché dice, fece questi animali, Dio fece questi animali, ciascuno secondo la sua specie. Mm-hmm. E queste piante ciascuna secondo la sua specie. Mm-hmm. E c'è questa frase che si ripete diverse volte nel primo capitolo della Bibbia. Sempre ciascuno secondo la sua specie. Ciascuno secondo la sua specie. Cioè, come dire, l'evoluzione non vale per tutti. Ogni specie ha una sua evoluzione, totalmente diversa. Mm-hmm. Per cui le evoluzioni probabilmente non sono neanche comparabili, perché sono ciascuna secondo la sua specie. Non si può neanche dire questo animale è più evoluto di quest'altro. No, ma infatti, però certo. Ti dico che il vero evoluzionista in effetti non, lo dice in senso storico. Cioè, guardando indietro, l'animale che c'è oggi è quello più evoluto, perché? Perché la storia è andata avanti e ci sono stati degli adattamenti a cui gli animali si sono dovuti adeguare, no? Anche a me piacerebbe se fosse così, però purtroppo non è così. No, alcuni... Ci sono degli studiosi, per esempio, uno studioso che mi piace tantissimo, lo ammiro tantissimo, che è Lorenz, uh-huh. che nei 7 peccati capitali dell'umanità dice noi siamo i più evoluti perché abbiamo la scrittura. Ah, vedi. No? Noi abbiamo il linguaggio, quindi abbiamo naturalmente il gatto può pensare. Questi qui, è vero, ho saputo dal telegiornale felino, dai libri mentali felini, che ci sono dei tipi di uomini chiamati popoli che hanno fatto guerra l'uno all'altro per delle parole e sono uccisi per delle parole. Pensate a quanto sono poco evoluti. Quanto sono poco evoluti, sono assurdi. Cioè, un animale che ci va dall'esterno, cioè questi qui si uccidono, si sbranano, si distruggono per delle parole di alcuni secoli prima. Esatto. Un gatto come può ammettere questo comportamento? Giustamente. Sei d'accordo, Sonia? Sì. Senti, ma a proposito di genetica e via dicendo, allora io ho visto un video sulla tua bacheca Facebook che mi ha molto colpito e faceva vedere due gatti, uno era con le zampe corte e il tuo commento faceva comprendere come questa selezione che ha portato questa razza, perché poi ho scoperto che era una razza di gatti, non sono un esperto di gatti, quella è una razza. E tu facevi l'osservazione che a causa di questa morfologia differente, questo gatto con le zampe corte, non riusciva a comunicare socialmente in modo adeguato con il suo compare gatto con le zampe più lunghe. E quindi non so se ci vuoi parlare un pochino di questa cosa, di come a volte le razze che noi ci piace tanto in questo modo, ma in realtà poi creiamo dei gatti che non stanno bene. Diciamo, il principio cardine è che la selezione delle razze avviene su base morfologica ed esclusivamente morfologica. Cosa vuol dire morfologica? Estetica, come sei fatto? Estetica, sì, esatto, estetica, che, dove estetica può significare lunghezza o colore del mantello, ma anche forma o posizione delle orecchie, lunghezza della schiena, lunghezza della coda, cioè proprio come si fa fisicamente. E siccome appunto la selezione del gatto verte attorno all'aspetto esteriore, all'aspetto fisico, no? Soprattutto negli ultimi 30 anni c'è stata un'accelerazione a cercare di tirar fuori forme strane, forme bizzarre. E quindi uno degli esempi appunto che postavo io era del Munchkin, no? Questo è gatto bassotto, sarebbe, cioè voi dovete immaginare un gatto bassotto, che mantiene le sue proporzioni pari, se non per queste zampe piccolissime che non sono più alte di 10 cm da terra. Sono veramente basse. Ovviamente un gatto di questo tipo avrà delle difficoltà a saltare, avrà delle difficoltà a predare. Sarà frustrato di fianco agli altri gatti. Nel video si vede molto bene che durante un conflitto non riesce a essere efficace nella sua comunicazione, certo, perché l'altro ha le zampe più lunghe e lo raggiunge senza mettersi a rischio, no? Quindi sono anche l'altro allunga la zampa, si vede che l'altro allunga la zampa sulla faccia di questo gatto qui senza problemi. Lui ci prova, perché gli è rimasto istintivo questo gesto di allungare la zampa, ma non ci arriva, no? Allora aspetta un attimo, che facciamo un attimo un break e poi andiamo avanti con questo discorso. A fra poco! Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Avete sentito la voce, ha detto chiedimi se sono felice. Allora, questi gatti con le zampe corte sono davvero felici? Di questo che ci stava parlando Sonia Campa poco fa, no? Ci sono queste razze di gatto con le zampe troppo corte che non sembrano essere molto felici, molto a loro agio con gli altri gatti, così. Però c'era Igor che voleva farti una domanda, Sonia. Se posso. Allora, il gatto sicuramente non si può, abbiamo detto che non si possono comparare le evoluzioni intraspecifiche, cioè non si può dire il gatto è più evoluto del cane, il cane è più evoluto dell'uomo, perché ognuno c'ha la sua evoluzione. Però uno guarda il gatto come una somma di perfezioni, no? Se gli piacciono i gatti, naturalmente. Quello che non riesco a capire è perché i gatti sono così crudeli coi topi? Si sono fatto un po' di ipotesi, no? Restano ipotesi, perché poi dovremmo chiederlo a un gatto perché lo fanno. Però, diciamo, al momento l'ipotesi più accreditata è che loro... Diciamo, un'ipotesi banale è quella che il gatto cerca di tramortire l'animale, no? A suon di buttarlo in alto, farlo rotolare, dargli un colpo con le zampe, lo tramortisce, lo indebolisce e quindi poi riesce a finirlo. Però poi è anche vero che ci sono delle situazioni in cui invece tutta questa messa in scena avviene e poi l'animale viene lasciato lì, magari... agonizzante, morto, agonizzante, senza che ci sia poi... Esatto, né lo uccide, né lo consuma, niente. Allora, su questo tipo di comportamento invece l'ipotesi è che il gatto reagisca in quel modo perché cerca di, da un punto di vista emotivo, liberarsi della paura di essere ferito da questo animale. Perché noi non dobbiamo dimenticare mai che noi siamo un po' condizionati dai documentari, no? Sui leoni, sulle tigri. Mm. Pensiamo sempre che il predatore sia quello brutto e cattivo che interviene facendo del male. E in invece anche la gazzella loro... è una carogna. Sì, anche loro come predatori rischiano, perché soprattutto i felidi in generale, ma i gatti che predano da solitari, se venissero feriti o morsi da un animale che poi magari lascia una ferita che si infetta o che provoca delle conseguenze, eccetera, loro non avrebbero nessuno su cui contare, no? Non c'è un gruppo che bada alla loro sopravvivenza o alla loro incolumità nel tempo che si riprendono, che si autocurano e così via dicendo. Quindi per loro l'integrità fisica è una cosa molto importante a cui badare. Quindi un'altra delle ipotesi è che questa danza del topo serva in realtà a scongiurare il pericolo che l'altro animale li possa ferire durante questo. Vedi, questo potrebbe essere un punto di vista. Non dobbiamo dimenticare che però cioè mangiare l'animale, nutrirsi, è una motivazione diversa e sganciata da quella della predazione. Sono correlate, certo. No? Però al gatto semplicemente gli piace fare sta cosa, ha poca empatia nei confronti del topo in quel momento. Ma non solo, anche il canarino, piglia tutto ciò che si muove, deve fare... Va bene, senti Sonia, ma se uno vuole cercarti per chiederti consigli sul gatto, dove ti trova? Io ho un sito. Come si chiama? www.pet-etology.it. Oh, perfetto. Così se uno dice: ma perché il mio gatto fa così? Dammi una mano, che non ci capisco più niente. Si può rivolgere a Sonia Campa. Grazie Sonia. Alla prossima. Grazie a voi. Ciao. A presto. Ciao. Che dici, Igor? Che dici? Ti ha soddisfatto la risposta? In parte sì, perché riabilita, no? È filofelina, diciamo. Come risposta. Filofelina è bellissimo. Solo che rimane a questo punto io ho visto una corrida in Spagna e i bambini spagnoli durante questa corrida, durante la quale un toro è salito sulle gradinate un toriero è rimasto ferito al ventre. L'unica corrida che ho visto, poi ovviamente, però mi hanno trascinato, ero piccolo, e i bambini erano entusiasti. I bambini gioivano enormemente di questa cosa, e gli adulti anche. E in questo non si vedeva, sulle gradinate, non si vedeva nessun tipo di accanimento sadico. È una dimensione, la corrida e la crudeltà del topo, cioè del gatto col topo, che io personalmente non ho ancora capito. Perché è al di là del bene e del male per me questa. Sì, però mentre il gatto... Assolutamente. Però mentre il gatto fa quello che fa per istinto, l'uomo con la corrida non lo fa per istinto, lo fa perché è stronzo. Vedi la teoria di... perché c'è anche l'uomo, anche l'uomo ha i suoi istinti. Sì, vabbè, ha l'istinto di... Perché allora tu gioca ad armi pari, vuoi fare il figo e far vedere se sei più forte di un toro, combatti senza banderiglias, senza che il toro venga perché già... istintivamente mi devo mettere in sicurezza. Ma mettiti in sicurezza, ma non debilitare l'altro animale, è diverso. Se non lo debilito non sono sicuro. Vabbè, l'allero, comunque è una stronzata. L'uomo è stronzo, il gatto aspetta col giudizio, perché le cose sono di là del bene e del male. Prima di giudicarle è bene cercare di arrivarci, no? E noi non ci siamo ancora arrivati. Io come occidentale... A cosa non siamo ancora arrivati? A capire perché avviene. Cioè, che cosa? Qual è il tipo? Sì. Qual è il tipo di cattiveria? Allora, perché un conto... Non lo so, non lo so. Secondo il mio punto di vista la cattiveria sta nel fatto che tu rendi spettacolare il massacrare un animale per far spettacolo. E allora siamo alla stessa stregua dei gladiatori. Però lì erano schiavi. Ma se tu hai considerato i gladiatori che combattevano una cosa abominevole per la dignità e l'etica dell'uomo, la stessa cosa devi fare nei confronti di un animale. Non c'è dubbio. Ma il fatto è che non è che venivano imposte. Milioni di persone hanno gioito nel vedere. Hanno gioito, però adesso posso dare una mia lettura? Essersi evoluto. Io do una mia lettura, al di là, sospendendo il giudizio, no? Sì, quello è come il gatto gioca col topo. Allora, il gioco a che cosa serve? Il gioco serve a prepararti alla vita reale. Quando tu giochi alla lotta, quando fai quelle cose, ti serve per esorgizzare la paura di quella cosa. Esorcizzare. Sì, devi prepararti all'aggressività, devi prepararti per come noi eravamo fatti, perché dal punto di vista evolutivo noi siamo uguali a come eravamo migliaia di anni fa, no? 50.000 anni fa. 50.000 anni fa noi dovevamo aggredire, dovevamo uccidere per sopravvivere. Appunto, per quello non ha senso oggi. Allora poteva avere un senso, oggi non più. È giusto. Istintivamente però hai bisogno di questa cosa. Senza anche tralasciare che il bambino da quel punto di vista gioisce anche perché quello è un contesto di festa, gli adulti lo presentano in quel modo lì. Infatti. E quindi non hai compassione ed empatia nei confronti del toro che in quel momento sta soffrendo perché qualche circuito nel tuo cervello è saltato per dirti lo puoi fare, lo devi fare, questa cosa ti serve. Sembrerebbe impossibile, cioè vedere un toro soffrire in quel modo e non provare dolore col toro, sembrerebbe assolutamente impossibile. Quindi come fa il gatto a non provare dolore per il topo a cui sta mangiando le zampe? Ma lui evolutivamente, evolutivamente, se è un cacciatore, non deve provare dolore per il topo, perché sennò come fa a mangiare? Oppure addirittura si dice che l'empatia... Mi ricordo anche, abbiamo intervistato Marisa Laurito, ha detto io sono andato a vedere la corrida e la corrida mi ci ha trascinato Antonio Banderas. Antonio Banderas le diceva: vieni a vedere, perché il toro in quel momento fa la morte dignitosa, la è fiero di sé, sì, capito, fa e tutte queste cose. No, sì, fa una morte poi anche molto molto molto brutta. No, ma poi non è nemmeno onesta presentata come cioè è da codardi, capisci? Sì, certo. È uno spettacolo da codardo. Allora vuoi fare una lotta con un animale? Al gatto serve non provare empatia. Poi tra l'altro c'è un'ipotesi anche sull'empatia che dice che il sadico è empatico. Cioè il vero sadico sa che dolore tu stai provando. Alberto Sordi. Però non è compassionevole, cioè non vuole evitarti quella sofferenza, te la vuole procurare, sì, proprio in modo molto terribile. Ma era anche terribile, nel film di Alberto Sordi. Terribile. Terribile. Quindi l'empatia potrebbe esserci, c'è mancanza di compassione. Certo è che da un certo punto di vista è bene che il gatto faccia così, perché deve nutrirsi. Ma non è che modo. Sono stupido io, è che non ho trovato niente di scritto su questo argomento. Perché non sono è facile, ci saranno diverse ipotesi. Interessanti non ce n'è neanche uno. Evidentemente l'umanità non è ancora, la mente umana fa finta probabilmente di esserci arrivato, ma fa finta bene di non aver capito. No, poi io avanzo delle ipotesi, però sai, è qualcosa di molto evoluto quello che vi ho appena detto. Lo so, infatti devo aspettare almeno 5 minuti per arrivare. Capisci, poi ci telefoni e ce lo dici. Poi esatto, mi raccomando. Allora, a che punto siamo? Quanto ci manca, Peter? Quanto abbiamo? Dobbiamo salutare. Allora, vi salutiamo qui dagli studi di Radio 24. Chiedimi se sono felice, scriveteci. Chiedimi se sono felice, @radio24.it. E ciao da Angelo Vaira, Rosita Celentano, Igor Sibaldi. Igor Sibaldi. Grazie, olè! Ragazzi, olè!